Il punto di Stefano Folli. Sull'Expo di Milano, su questo buco nero in cui rischia di annegare la credibilità italiana nel mondo, sarebbe meglio evitare l'eccesso di propaganda elettorale. E invece i cantieri aperti dell'esposizione rischiano di diventare il palcoscenico di un duello ravvicinato e senza esclusione di colpi fra il premier Renzi e il suo competitore Beppe Grillo, in una gara nella quale non sappiamo chi sarà il vincitore. Grillo ha già detto che Renzi non può chiamarsi fuori dallo scandalo, ma per la verità il Presidente del Consiglio è palesemente incolpevole dei fatti di Milano, a meno di non volergli attribuire una responsabilità oggettiva e storica come leader del partito di Greganti, e forse sarebbe eccessivo. Quanto a Renzi, ha cominciato facendo la cosa giusta, un garante della trasparenza come primo passo di una serie di misure ad hoc. Speriamo che non esageri con le parole, perché darebbe l'impressione di essere un po' troppo preoccupato dei 5 Stelle. Potrebbe essere un errore. Inseguire Grillo sul suo terreno è sintomo di insicurezza e soprattutto rischia di accreditare l'avversario presso l'opinione pubblica.